Allora, finora abbiamo sentito le voci istituzionali del governo sudafricano sul tema turismo. Ebbene, però adesso siamo in collegamento con Johannesburg, andiamo a sentire che atmosfera c'è sul campo. Nostra ospite Anna Maria Mocci, guida turistica sudafricana, nata in Italia e che da 37 anni vive a Johannesburg. Benvenuta Anna Maria. Grazie mille, caro Dario. Allora, Anna Maria, come esperta del Sudafrica, subito ti chiedo 3 suggerimenti per i turisti che verranno in Sudafrica per la Coppa del Mondo, 3 posti del Sudafrica da non perdere assolutamente. The Kruger Park, naturalmente, e Johannesburg, per quanto sia sempre detta la tremenda Johannesburg, quella del crimine e tutto il resto. Si può visitare benissimo Johannesburg con le dovute precauzioni, naturalmente non la si deve considerare una città italiana o francese o spagnola, si deve considerare una città che il centro non è un centro storico, ma bensì è un centro di business, perciò andare in giro a piedi in centro al centro, vada a vedere il centro storico, non funziona, perciò bisogna fare le proprie, di solito andare sempre in giro con una guida, possibilmente, che sa esattamente dove portarvi. E d'altronde si riesce a capire molto meglio il paese con qualcuno che te lo spiega. Allora, abbiamo detto il Kruger Park, che è splendido e lo confermo per l'avevo visto dal vivo. Johannesburg è il terzo posto da non mancare assolutamente? Cape Town naturalmente, perché è tutto cominciato lì, diciamo, il Sudafrica. È cominciato lì il vecchio Sudafrica, il nuovo Sudafrica è cominciato a Johannesburg, il nuovo Sudafrica, non da Cape Town, perciò sono quei 3 posti veramente da non perdere. Suggerimenti utili per i turisti che arrivano dall'Italia? Suggerimenti utili sono, di solito, come ho detto prima, non andare in giro da soli, perché naturalmente non è una città che si conosce, è come se andassi a Roma o a Torino o a Milano e non so i quartieri, non so, e vado a finire in un quartiere che non è salutare. Cioè andare sempre con qualcuno che conosce la città o la zona, anche se non è una guida, anche se sono amici, anche se sono conoscenti, sempre meglio avere qualcuno che ti indirizza nei posti giusti. Qui dall'Europa siamo molto preoccupati per l'escalation dei prezzi. Abbiamo fatto una piccola inchiesta provando a chiedere i costi ad alcune bed and breakfast proprio a Johannesburg, 150 euro a notte. Qual è la situazione sul campo, Anna Maria, e quali possibili suggerimenti per evitare questo salasso? Non so cosa dire. Una parte è stata anche la stessa associazione della FIFA e del Match, che avevano bloccato tutto quanto, capito? Sembrava che fosse dovesse arrivare mezzo mondo dentro al Sudafrica, e non sembra che sia così, purtroppo, perché è un peccato, perché il paese offre molto prima di tutto, e oltretutto si merita di essere esposto in maniera giusta e non in maniera da gente che vuole acchiappare soldi a piene mani. Certo che per il Sudafrica è una grande occasione. Bene, allora staremo a vedere. Intanto grazie ad Anna Maria Mocci, guida turistica italiana a Johannesburg, per essere stata nostra ospite, e allora buona Coppa del Mondo di Sudafrica 2010. Grazie Dario, lo speriamo veramente, lo speriamo tutti quanti.